La prossima importante iniziativa del Comitato è la manifestazione che abbiamo organizzato, stiamo organizzando per sabato 16 marzo, che è il Bosco che Cammina, che è un'iniziativa che vuole riportare al centro della città, sotto le finestre diciamo del Palazzo Comunale, la questione del futuro dei prati di Caprara, che dopo l'istruttoria pubblica è rimasta in qualche modo ancora in una fase di incertezza, di grande incertezza. Quindi vogliamo ribadire l'importanza di questo bosco per tutta la città, per i cittadini che quindi lo accompagneranno, diciamo, dalla sua sede naturale fino a Piazza Maggiore. Quindi stiamo lavorando con dei laboratori in tutta la città e stiamo lavorando con la rete delle associazioni che abbiamo costruito in questi due anni, perché vuole essere appunto una manifestazione della città intera, di tutti diciamo, i gruppi, i comitati, le associazioni che si preoccupano della salute pubblica, dei beni comuni e quindi diciamo del futuro della nostra città. Il comitato ha ottenuto un passo avanti rispetto alle posizioni e alle decisioni del Comune, ottenendo una qualche apertura, però solo vaghe aspettative rispetto a quello che sarà il futuro di questa importante area urbana, questo bosco all'interno della città, nella parte ovest. Diciamo quelle che erano le previsioni sull'area previste dal POC, che è il piano di operativo comunale, non sono sostanzialmente cambiate. C'è stata diciamo, un'intenzione nell'ordine del giorno che è stato approvato in consiglio comunale di ridurre gli indici di edificazione, però la visione rimane la stessa, cioè quella di trasformare, far diventare un quartiere quello che oggi è un bosco urbano. La nostra proposta è sempre la stessa, cioè di prendere in carico, no, come città questo grande patrimonio ecologico, ribadirne diciamo il valore pubblico, non trasformarlo in modo tradizionale con un nuovo quartiere che genererà soltanto traffico, tra l'altro della cui utilità siamo molto perplessi, e questo all'interno di una partita diciamo sulla rigenerazione urbana che tiene insieme anche l'altro grande diciamo nodo del nostro lavoro, che è quello dell'ex centro sportivo CRB, che non vogliamo dimenticare. Quindi diciamo una visione di città più pubblica, attenta diciamo alla salute dei cittadini, agli spazi comuni, agli spazi che sono in qualche modo non merce di scambio soltanto per interessi privati. Guardavo il volantino pubblicizza la manifestazione del 16 marzo alle ore 15 ed è molto suggestivo, perché riprende un'immagine della foresta che si muove, prendendo Shakespeare, Macbeth alla fine del suo regno e nella tragedia come profezia delle tre streghe. Nella tragedia la foresta si muove ed è l'esercito che avanza, mimetizzato con rami di alberi, e sono i cittadini che vanno verso la pubblica amministrazione a chiedere un resoconto. Esatto, vuole essere anche, come dire, una minaccia ancora diciamo di avvertimento, no? La città continua, ha detto in tutti i modi, raccogliendo firme, chiedendo l'istruttoria pubblica, presentandosi con delle istanze informate, consapevoli sulla qualità e sul valore di questo bosco e dell'altro polo che è il CRB. Quindi come nella tragedia, no? Il potere si crede in qualche modo infinito, ma diciamo, è appeso dei fili, che in questo caso è la fiducia dei cittadini e il fatto che si sentano più o meno ascoltati nelle loro istanze legittime. Noi abbiamo dimostrato l'importanza di questo bosco, abbiamo chiesto che venga preservato, per ora non abbiamo avuto nessuna garanzia, quindi in qualche modo vogliamo ribadire che questo bosco, se non sarà ascoltato, sarà lui a riprendersi diciamo in qualche modo la città, l'attenzione che si merita e il rispetto e diciamo la tutela che si merita. Tra l'altro Rigenerazione Non Speculazione è un'associazione che è riuscita a convogliare all'interno di questa protesta tutta un'altra serie di associazioni ecologiste. Sì, diciamo sia diciamo i gruppi storici ambientalisti, ma anche una serie di realtà che lavorano su diverse tematiche ambientali, anche sociali, pubbliche, appunto una rete molto molto vasta che si è consolidata appunto in questi due anni, con cui abbiamo già fatto anche altre iniziative di rete, come per esempio Aria Pesa, che già coinvolgeva moltissime realtà, nasce come rete civica. Abbiamo lavorato con i genitori, con il comitato dei genitori di Bologna. Quindi diciamo il nostro lavoro vuole essere sempre un lavoro di comunità allargata, non sono istanze diciamo particolari, ma diciamo chiediamo appunto che la città sia al centro di tutti, che venga rispettati dei valori fondamentali come quello della salute pubblica. Ricordiamo sempre che siamo una delle zone più inquinate. Il primo appuntamento, che è il 28, sotto le sale del Cinema Orione, dove questo comitato tiene un'assemblea allargata a tutti i cittadini per spiegare questi laboratori di preparazione a questa manifestazione. Diciamo, il concentramento è in via Mazzabotto 24 davanti all'ex Cerebiale 3, poi ci sposteremo lungo via Mazzabotto e lungo la via Emilia fino a Piazza Maggiore, con varie tappe intermedie per chi vuole fare un percorso un po' più corto, quindi teniamo conto delle esigenze di tutti.